Ancora sui valori dell'anima e sui bisogni dell'ego. Anzi, distingo proprio, potrei parlare di bisogni dell'anima e bisogni dell'ego, ma da adesso in avanti, invece che parlare di bisogni, che sembra, no, piuttosto un modo restrittivo di parlare dell'anima, parliamo di valori dell'anima. Qual è il fondamentale valore dell'anima? Ce n'è uno, è il proposito interiore, cioè il bisogno di risvegliarsi. In altri termini, il bisogno di passare da una visione dualista a una visione non duale, in cui quindi l'amore diventa il centro della nostra vita e con tutte le sue qualità, le qualità dell'essere, quindi libertà, giustizia, bellezza, armonia e così via. Quindi il vero bisogno dell'anima, cioè il valore dell'anima fondamentale è uno solo, passare dalla situazione di potere, dominio, cioè dovuta alla dualità, al senso di unità e quindi alle qualità dell'essere, dell'amore. Quando i valori dell'anima, il risveglio non viene compiuto, noi siamo guidati dai bisogni dell'ego, che sono bisogni compensativi di che cosa? Della carenza di risveglio, della carenza di essere, di una carenza ontica, di essere davvero chi siamo. L'amore si esprime sotto tanti aspetti: essere amato, essere approvato, riconosciuto, apprezzato. Queste sono richieste dell'ego. Altri aspetti, l'amore è anche conoscenza piena. Mentre amo, conosco pienamente l'altra persona. Mentre amo, conosco pienamente, in senso non scientifico, ma in senso di conoscenza Per identità. per identità, conoscenza per identità, come si dice nel mondo dello yoga. Conosco l'albero, conosco il gatto, conosco la montagna. Ok, la conoscenza piena. Quando manca questa capacità di conoscere pienamente, allora noi abbiamo un bisogno compensativo che è il bisogno di aver ragione, di essere stimati, di essere approvati. Se non ho sperimentato la libertà come qualità dell'anima, allora ho bisogno di essere libero senza tenere conto degli altri, quindi questa non è più libertà, ma è libertinismo. Se non sono stato visto nella mia identità, unicità, originalità, allora io ho bisogno di esprimere nel mondo il mio orgoglio, la mia presunzione. Che cosa sono? Sono modi per coprire il vero bisogno dell'anima, ovvero il vero valore dell'anima. Quando questi bisogni dell'io non sono soddisfatti, che accade abbastanza spesso, ovviamente abbiamo poi le classiche emozioni negative, dalla rabbia, la tristezza o la paura. Vediamolo ancora in altro modo. Quando io ricevo il valore dell'apprezzamento, il mio vaso si riempie e sono in grado di prendere e dare. Da bambino cresco e finalmente da adulto, quando divento genitore, il mio vaso è riempito e sono in grado di prendere e dare. Lo stesso quando sono riempito di armonia, di empatia e così via. Ma se anziché essere apprezzato io sono ignorato, rifiutato o disprezzato, il mio vaso rimane vuoto o molto poco pieno. Cosa accade dopo? Allora sviluppo un bisogno carenziale, che è quel bisogno dell'ego di essere approvato. Quindi ho una dipendenza dall'approvazione continua degli altri. Il mio vaso in questo caso è come fosse bucato in fondo, anche se ricevo approvazione, l'approvazione se ne va, non vengo mai riempito dall'approvazione degli altri. Tutto questo mi porta a mettere in atto delle strategie. Le strategie, poi le vedremo meglio, sono di due tipi, quella depressiva e quella narcisistica. Adesso riprendiamo ancora in modo più analitico tutto il discorso. Allora, abbiamo un valore dell'anima, l'apprezzamento. Il bambino ha diritto, tra virgolette, alla nascita di essere apprezzato, di essere amato, di essere accudito e così via. Se c'è carenza, viene ignorato, disprezzato o criticato, si produce sofferenza. Questa è la ferita originaria, che viene percepita come un'ingiustizia, qualcosa che non va bene. E inizia da subito il giudizio. anche se inizialmente è di tipo fisico, è di tipo corporeo, viene espresso col pianto, con la rabbia, la tristezza. E si crea da subito una scissione della personalità in struttura depressiva e struttura narcisistica, volendo proprio semplificare al massimo. Poi lo vedremo dopo come procede questo. Allora, per la parte depressiva io proverò tristezza, quindi mi carico di ciò che io non vado bene, non sono apprezzato significa che non vado bene, sono criticato, io non vado bene, ho paura perché se non sono apprezzato o criticato ho poi sempre paura di essere estromesso ed escluso, quindi il mio valore, in questo caso il mio valore, l'appartenenza è sempre messo a rischio. Dall'altra io sento che è ingiusto tutto questo e provo rabbia. Nel termine di corrente energetica qui abbiamo la ferita e qui abbiamo il sé inferiore. La ferita dà origine alla struttura depressiva e il sé inferiore alla struttura narcisistica. Da tutto questo nasce un bisogno compensativo. Un bisogno compensativo che quindi è un bisogno dell'ego, ho detto prima, dipendenza dall'approvazione, dipendenza dall'apprezzamento continuo degli altri. O anche dipendenza dalla ricevere ragione, che gli altri mi diano ragione e così via. Questo tipo di bisogno non viene riconosciuto nella sua vera natura come bisogno carenziale e quindi inconsciamente io sempre alimento dentro di me una pretesa di risarcimento nei confronti di chi? Dei genitori che non me l'hanno dato o comunque degli altri o di Dio o di quello che è. Da qui nascono due strategie disfunzionali che abbiamo già accennato: la strategia depressiva fondata sulla paura o sulla tristezza e quindi mi porta a dipendere dall'approvazione degli altri e per essere approvato dagli altri finisco per compiacere i loro bisogni e andare incontro a quello che credo che gli altri mi chiedano in modo proprio da poter ricevere delle lodi e dell'apprezzamento. Nello stesso, mentre questo è alla luce nella struttura depressiva, nell'ombra, nella stessa struttura, abbiamo la rabbia, perché lo consideriamo giusto. Nella struttura narcisistica abbiamo il contrario, abbiamo la rabbia a livello cosciente e la tristezza e la paura nell'ombra. Nella rabbia io ho la tendenza a impormi, farmi grande, opprimere e disprezzare gli altri, cioè fare con gli altri quello che ho ricevuto io. In questo caso io internalizzo i costi della mia politica, qui esternalizzo i costi della mia politica. L'origine di tutto è nella ferita e nella sofferenza. Con entrambe le strategie però io non risolvo la mia sofferenza, né con l'una né con l'altra, perché, adesso lo vediamo con chiarezza, perché qui vediamo la struttura depressiva, dunque non si riceve apprezzamento quando si è nella depressione, ma disprezzo, perché le persone non apprezzano davvero una persona che si sottomette. Le persone percepiscono debole e il loro ego disprezza. L'anima ha compassione, ma l'anima è il 5% delle persone, di per sé riceviamo disprezzo. Per quanto riguarda la struttura narcisistica, anche qui non si riceve apprezzamento. Se io riesco a impormi, far paura agli altri, io otterrò sottomissione, ma riceverò in cambio ostilità conscia o inconscia, quindi in fin dei conti disprezzo. In entrambi i casi io rinforzo il mio bisogno carenziale di apprezzamento perché ricevo soltanto disprezzo. Di qualche volta avrò dei momenti di illusione di essere apprezzato per queste strategie, ma si tratta sempre di soluzioni illusorie. E proprio a questo punto si inserisce il discorso di Rosenberg. Rosenberg dice: riconoscere il proprio bisogno. Lui non lo specifica che è un bisogno carenziale, perché a volte no, magari non è un bisogno carenziale debole, ma insomma, riconoscere il bisogno nella sua natura, chiamiamo anche nella sua natura carenziale, e riconoscere il sentimento che è collegato. Non sono stato apprezzato, questo genera per esempio in me rabbia, oppure non sono apprezzato, questo genera in me tristezza. Rosenberg insiste nel passare dalla negazione del bisogno e del sentimento, cosa a cui siamo abituati, a negare che abbiamo un bisogno, a negare che abbiamo un sentimento che dipende da quel bisogno. Noi tendiamo ad attribuire i nostri sentimenti, le nostre ragioni al comportamento altrui, invece Rosenberg dice basta, adesso finiamola con questa attribuzione causale errata, Riprendiamoci la verità in mano. La verità è che io ho bisogno di apprezzamento. Ho bisogno di apprezzamento, e però non ho un diritto di essere apprezzato, non ho un diritto al risarcimento. Da qui iniziano le possibili strategie che sono funzionali. Una volta riconosciuta la verità, possiamo agire in modo funzionale. Infatti, anziché occuparmi e concentrarmi nel ciò che sto ricevendo come apprezzamento, e quindi anziché pensare a che cosa chiedere e cosa ricevere, mi concentro sul dare che in senso originale, dos in sanscrito, significa anche ricevere. Nel momento che io mi concentro nel dare, io sto riempendo me stesso, perché le qualità dell'essere sono radianti. Nel momento che do ad altri, e sto dando contemporaneamente anche a me stesso, a patto che io abbia riconosca la natura del mio dare e che io non ho un diritto al risarcimento, altrimenti ci sarà una parte di me che dà, ma in realtà dietro c'è una pretesa. Questo è il punto centrale. Allora, il discorso di Rosenberg continua dicendo, quindi dare che cosa? Dare empatia, dare riconoscimento, dare apprezzamento agli altri, cioè andare incontro ai loro bisogni e agli loro bisogni carenziali. Dal momento che vado incontro agli altri, secondo la visione non duale e secondo il metamodello 2, io sto andando incontro a me stesso. Ripeto, purché sia nella verità, che riconosca la natura della situazione, cioè che io non ho nessun diritto al risarcimento, che non c'è nessuna ingiustizia a cui gli altri devono sopperire. Qui si ferma in linea di massima il discorso di Rosenberg va avanti. Su questa base, anzi proprio su questa base, io posso fare richieste che non sono pretese ad altri, richieste che sono di aiuto. Io mostro la mia vulnerabilità, ho bisogno di questo, lo ammetto come bisogno e con la forza della verità, su questa base di verità, non ho diritto di essere compensato, non ho diritto di risarcimento, ma semplicemente faccio una richiesta di aiuto. Quindi la mia sarà una richiesta, non una pretesa, e sono pronto ad apprezzare e essere grato per ogni regalo di attenzione al mio bisogno carenziale, che altri liberamente e volontariamente mi faranno, senza che altri abbiano nessun obbligo nei miei confronti. Nello stesso tempo, io offro, senza chiedere nulla in cambio, la cura dei loro bisogni carenziali, cioè mi presto ad aiutare le altre persone, mi curo degli altri e mi curo di me stesso. Dos in sanscrito è proprio sì, dos in sanscrito è questo, dos uguale dare, dare e ricevere. Un'ultima considerazione. In Aleph stiamo creando questo collegamento tra psicologia e spiritualità, ma mentre di solito si parte dalla psicologia umanistica e poi si dice poi andiamo verso la psicologia transpersonale, noi assecondiamo quello che mi sembra una linea ormai presente, che è questa: la psicologia deve essere irradiata, intrisa di spiritualità, perché la psicologia umanistica è una fase di passaggio verso la psicologia transpersonale, verso la spiritualità. Quindi, sin dall'inizio, la psicologia può essere tutta rivista alla luce dei principi spirituali. In fondo, potremmo dire che la psicologia umanistica ha esaurito il suo compito storico, che è quello di aprire la psicologia alla dimensione dell'essere